10:52, un buongiorno a tutte e tutti i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici. Comincia adesso una nuova puntata di Parole Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo. Ricordo i contatti della radio per il numero fisso 011-2495-669, mentre il cellulare 346-6673-263. E un buongiorno anche da Francesca, oggi formazione un po' diversa dal solito. Ne approfittiamo per mandare un saluto alla nostra Eddie, che oggi non può essere qua a causa due tonsille in meno, ma che tornerà martedì prossimo più in forma che mai, quindi pensiamo sia all'ascolto, quindi la salutiamo e niente, vi lasciamo ancora in compagnia della nostra sigla per un pochino, poi iniziamo con la puntata. E vi ricordiamo che Radio Blackout e Parole Ribelli le potete ascoltare oltre che sui 105.250 della modulazione di frequenza, anche in streaming dal sito radioblackout.org e da Radio Info Out, che in questo momento sta rilanciando il nostro segnale, che poi sul sito del collettivo universitario autonomo qua-torino.blogspot.com trovate poi tutti i podcast delle puntate di Parole Ribelli. Le quattro, pesanti come un colpo, a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Sulla punta dei piedi delle onde nell'alta marea sino a sfiorare la luna, dove trovare un'amata uguale a me. Angusto sarebbe il cielo per potermi contenere. E se io fossi povero come un miliardario, ma che cos'è il denaro per l'anima? È un ladro insaziabile, si annida in essa all'orda di tutti i miei più sfrenati desideri. Non basterebbe l'oro di tutte le Californie, non basterebbe l'oro di tutte le Californie. Se io potessi balbettare come Dante, silenzioso. Sento in un tremito il decrepito eremo terrestre. Urlerò con la mia voce immensa! Le comete torceranno le ali, fiammeggianti e giù si getteranno a capofitto per la malinconia. Coi raggi degli occhi rosicchierai le notti. Se io fossi buio, come il sole! Ma perché mai dovrei io abbeverare con il mio splendore il ventre dimagrato della terra? Allora, 11.01 in questo momento, questa settimana Parole Ribelli inizia incredibilmente puntuale, vista l'assenza dei nostri usuali predecessori di trasmissione Maurizio e Gianluca, a cui comunque mandiamo un saluto se sono in ascolto, e adesso come di consueto andiamo a presentarvi quelli che saranno gli argomenti per la puntata di quest'oggi, martedì 14 ottobre. Allora, sì, come diceva Benefra, dopo un minimo di rassegna stampa, gli argomenti che andremo a toccare oggi sono... In primo luogo l'Expo, che ha visto insomma il tema Expo, dopo che si è conclusa una 2 giorni di mobilitazione questo fine settimana a Milano, andremo a fare un collegamento con Fumagalli. Passeremo poi in ambiente universitario, infatti ieri c'è stata un'assemblea universitaria di cui andremo a chiedere aggiornamenti in merito alla 3 giorni che comincerà questo giovedì, venerdì e sabato, visto che, insomma, come ben sappiamo, Torino ospiterà questo vertice sul lavoro. Un'ultima, penso, aggiornamenti dal Messico. E questo più o meno è quanto, poi insomma ovviamente i microfoni di Radio Blackout come sempre sono aperti per eventuali aggiornamenti in tempo reale da mobilitazioni e altro, quindi ricordiamo anche i contatti 011 249 5669 346 667 3263. E a questo proposito poco fa è arrivato un cisti. Ne approfitto per leggere un cisti che è appena arrivato, posto di blocco Carabinieri, via Borgaro, angolo Corso Umbria. Quindi per chi fosse nei paraggi, come sempre, cisti. Arriva un altro messaggio proprio in questo momento, oggi cellulare roventi. Maurizio, che ha raccolto la nostra provocazione, ci scrive: Mauri all'ascolto, baci, schiappe. Quindi ricambiamo nuovamente i saluti, vi lasciamo un pezzo musicale, poi iniziamo con la rassegna stampa. Benvenuti al mondo, state entrando nel buio. via Rotondone di Stupinigi. Allora, 105.250, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli. Prima di iniziare con gli approfondimenti andiamo a commentare un articolo che è uscito pochi giorni fa sulle pagine online del Manifesto, che si intitola "Il decreto sugli 80 euro cancella il diritto allo studio". Un approfondimento a firma di Roberto Ciccarelli, che va a mettere in luce il rapporto tra la questione appunto degli 80 euro promessi da Renzi e il finanziamento per il diritto allo studio, che come sappiamo ormai da diversi anni non gode insomma di buona salute, particolarmente qua in Piemonte, dove ci sono stati tagli pesantissimi sotto diciamo la guida della regione da parte di Roberto Cota. Praticamente spiega questo articolo che gli 80 euro del bonus IRPEF, oltre a essere appunto di fatto un po' un'elemosina, perché per chi frequenta l'università o la scuola sa bene che con quei soldi difficilmente si copre anche solo il costo dei libri, in realtà come buona abitudine insomma dei governi, con una mano danno e con l'altra tolgono. Per finanziare infatti questo fondo degli 80 euro IRPEF verranno infatti tagliati i fondi delle varie regioni italiane, che sono poi quelle che vanno a finanziare appunto a livello locale il diritto allo studio e non solo. Le regioni dovranno infatti mettere a disposizione dello Stato ben 500 milioni di euro per il 2014. La cifra è stata confermata in un'intesa successiva da parte della Conferenza Stato-Regioni e andrà a riguardare appunto tagli molto pesanti ai fondi per il trasporto pubblico locale, ai finanziamenti per i libri di testo per persone affette da disabilità e ai fondi per le borse di studio universitarie. Quindi le regioni saranno appunto costrette a tagliare 150 milioni di euro, il tutto per rientrare nel patto di stabilità. Questo fondo integrativo statale per le borse di studio inizialmente era stato svincolato dal patto di stabilità proprio per evitare questa situazione, ora invece verrà inserito nel mezzo. A complicare ulteriormente il quadro creato dal governo per finanziare questa pagliacciata degli 80 euro verrà penalizzato gravemente il diritto allo studio, anche in virtù del fatto che appunto di un passaggio in particolare della misura sull'IRPEF dello Sblocca Italia. Infatti a settembre il governo Renzi ha nuovamente vincolato questi 150 milioni del fondo statale al patto di stabilità. Queste risorse in più andranno perse se non verranno spese entro il 31 dicembre di quest'anno, altrimenti le regioni dovranno restituirle allo Stato, e per tradizione questa ripartizione avviene a metà dicembre, quindi praticamente non ci sarà nemmeno il tempo di impegnare questo fondo ed è quasi certo che la cifra andrà restituita. Quindi insomma questo ci sembrava interessante così commentarlo brevemente per svelare anche un po' ciò che poi realmente si nasconde dietro a questi annunci, questi spot pubblicitari del governo, che appunto con una mano danno un po' di elemosina, dall'altra tagliano in maniera ben più pesante. L'articolo appunto lo trovate sul Manifesto, lo recuperate facilmente online col titolo "Il decreto sugli 80 euro cancella il diritto allo studio". Noi adesso vi lasciamo un paio di pezzi musicali, intanto prepariamo la prima diretta. Yeah. Allora, prima di andare a fare la diretta con Andrea Fumagalli, come vi avevamo annunciato, sempre a proposito di Expo, visto che appunto in queste settimane si sta cominciando un po' ad entrare nel vivo della mobilitazione contro questa grande vetrina di Expo 2015, volevamo anche farvi sentire l'audio di un video che è stato diffuso nei giorni scorsi da Sergio Bologna, che ha fatto un appello contro il lavoro volontario, perché ricordiamo appunto Expo si reggerà soprattutto sul lavoro gratuito e volontario di 18.000 giovani che andranno appunto a reggere un po' le sorti di questa di questo evento. E Sergio Bologna appunto ha diffuso questo appello online, in cui appunto invita questi volontari o a sottrarsi appunto a questo ricatto del lavoro gratuito, oppure insomma nel momento in cui in realtà questi volontari sono già stati in gran parte trovati, a quanto so, a mettere poi in atto delle forme di protesta quando appunto Expo entrerà poi nel vivo. Quindi niente, ve lo facciamo ascoltare, tanto è molto breve, così inizia anche a dare qualche spunto di riflessione per la diretta che andremo a fare subito dopo. Quello che vi sto per leggere, l'ho scritto io, è rivolto ai cittadini milanesi e a tutti gli italiani, ma soprattutto ai giovani. Parla del lavoro gratuito per l'Expo di Milano, un vero schifo, una vergogna. In un paese con più del 40% di disoccupazione giovanile, con almeno 4 milioni di precari che vivono in mezzo a mille difficoltà. Ci promettono per questo evento migliaia di nuovi posti di lavoro, ma il 70% è lavoro gratuito. Un lavoro a gratis non è un lavoro, ma non è nemmeno volontariato. I volontari sono persone che sacrificano la loro vita individuale per il bene altrui, per soccorrere persone e paesi in difficoltà. I volontari sono presenti dove ci sono guerre, epidemie, carestie. Fare volontario all'Expo significa solo prestare la propria persona gratis a una grande operazione di speculazione immobiliare, a un progetto che continua a fare di Milano una città vetrina del nulla, città non più di uomini ma di manichini, non più di intelligenze innovatrici capaci di creare qualcosa per sé e per il paese, ma di gente che non immagina altro destino se non aspettare i turisti, che lasciano pochi soldi e molti rifiuti. L'Expo, come sapete, è un'asta, un concorso. Concorrono tante città metropolitane. Chi offre di più vince. Questa qua ce l'hanno regalato Prodi e la Moratti. E nei requisiti per candidarsi, in concorrenza con altre città, hanno messo sul piatto le migliaia di volontari. La giunta Pisapia si è trovata all'Expo tra i piedi, tirarsi indietro era impossibile, ma gestire meglio la questione dei volontari era possibile. Come mai si cercano volontari per accogliere i turisti all'Expo invece per risanare quartieri, territori, per le mille emergenze di una grande città non si fa lo stesso? Sarebbe più logico. Si tratta di beni comuni. Sono forse meno importanti dell'Expo? Nelle condizioni in cui versa l'occupazione giovanile oggi, creare occasioni di lavoro gratuito è una nefandezza. Addirittura si permette ai reclutatori di andare nelle scuole. Presidi, insegnanti, buttateli fuori, cercano gente qualificata che sa le lingue, molti ci cascano e non si rendono conto di portare via il lavoro a chi di mestiere fa questo per campare, interpreti, accompagnatori, guide turistiche. Ragazzi, voi che state per cascarci o ci siete già cascati, lavorare gratis non fa curriculum, lavorare gratis significa accettare un'umiliazione. Vi dicono che conoscerete milioni di persone, che farete amicizia col mondo. Ma fatemi capire, dovrete accogliere i visitatori o dovrete distribuire i vostri biglietti da visita e i vostri indirizzi mail per farvi contattare? Rischiate di pigliarvi qualche calcio nello stinco? Pensateci bene, siete ancora in tempo. E se invece volete provare questa esperienza, almeno cercate di salvare la vostra dignità. Come? Il primo giorno, giorno d'apertura, piazzategli uno sciopero, tutti assieme incrociate le braccia. Vi assicuro, vi divertirete da pazzi solo a vedere la faccia di quelli che vi hanno reclutato. E questo insomma era l'appello di Sergio Bologna, insomma, che si chiude anche con un invito abbastanza chiaro ai volontari di Expo, che speriamo insomma verrà raccolto nei prossimi mesi. E noi adesso vi lasciamo ancora un paio di pezzi, intanto contattiamo Andrea Fumagalli. be Allora, 11:30, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli. Iniziamo con gli approfondimenti per la puntata di quest'oggi. Come vi avevamo annunciato in apertura, continuiamo a parlare di Expo 2015, a pochi giorni dalle due giornate di mobilitazione che ci sono state a Milano questo fine settimana. Abbiamo a questi microfoni Andrea Fumagalli, che intanto salutiamo e ringraziamo per la disponibilità. Buongiorno, ci sente? Sì, Vicente, un saluto a te, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ecco, un saluto a lei. Con lei volevamo appunto riprendere un articolo che aveva scritto già qualche mese fa, che aveva già un titolo abbastanza chiaro, si intitolava Expo Milano 2015, debito, precarietà e cemento. All'interno di questo pezzo riprendeva appunto un po' di dati con il quale questa grande vetrina di Expo è stata presentata, appunto annunciandola un po' come la panacea di tutti i mali, l'evento che avrebbe risollevato le sorti del territorio milanese in questo periodo di crisi. A noi insomma interessava andare un po' a sviscerare soprattutto la questione dell'occupazione, perché appunto tra i vari spot pubblicitari che hanno accompagnato Expo c'è appunto questa questione della creazione di posti di lavoro rivolti soprattutto ai giovani. Quindi ci interessava un po' andare ad indagare quale sarà in realtà l'impatto reale di questo evento e soprattutto quale tipo di lavoro verrà offerto da Expo. Quindi le lascerei subito la parola. Sì, dunque è difficile fare un calcolo adesso di quale sarà l'impatto occupazionale di Expo, perché le informazioni di cui disponiamo sono abbastanza carenti al riguardo. Ricordo che è stato fatto uno studio che è uscito nel dicembre dell'anno scorso, inizio di quest'anno, fatto dall'Università Bocconi, da un centro di ricerca che è coordinato da Lanfranco Senne, che è un docente della Bocconi, che fino a poco tempo fa era anche presidente dell'AMM, che è una delle società, l'AMM a Milano sta per Metropolitana Milanese, gestisce anche tutta la struttura dell'acquedotto milanese, quindi della distribuzione dell'acqua. E l'AMM è una società che è direttamente implicata dentro l'affare Expo, e quindi questo studio ovviamente pecca, diciamo, di un minimo conflitto di interessi. Certo. Per essere ironici. E questo studio, che è stato ripreso da tutti i giornali, che è diventato un po', diciamo, la cartina di tornasole delle magnifiche sorti progressive dell'Expo, prevede un incremento occupazionale di circa 200.000 unità di lavoro, distinguendoli su tre livelli. Il primo è tutta l'occupazione che è stata creata per quanto riguarda la costruzione dell'evento, quindi dal punto di vista soprattutto della cantieristica, della viabilità, di quelle opere di saccheggio e devastazione del territorio che hanno un po' caratterizzato l'ultimo anno a Milano, e con tutti i cantieri che ancora adesso nella città di Milano sono aperti e che creano anche abbastanza problemi dal punto di vista della viabilità. Tra parentesi, questi lavori si presentano a 200 giorni dall'inizio dell'apertura dei cancelli di Expo con un forte ritardo, al punto tale che tutta una serie di progetti sono stati già fortemente ridimensionati, e quindi quello che doveva essere la stima dell'occupazione per costruire l'evento si è già ridotta. Il secondo livello è l'occupazione che viene creata durante i 6 mesi di Expo per gestire tutte le attività e i servizi che devono essere garantiti agli ipotetici visitatori di Expo. Il calcolo è stato fatto ipotizzando che il numero di visitatori di Expo sia circa intorno ai 20 milioni di persone. Sicuramente un dato molto sovrastimato, anche perché se in 6 mesi venissero effettivamente 20 milioni di persone a Milano, questo creerebbero dei problemi logistici non indifferenti, per cui è spiegabile che ce lo avvenga, soprattutto per chi ci abita. E poi il terzo livello sono le ricadute occupazionali post-Expo. Su questo terzo livello i dati sono del tutto, le stime sono del tutto fantasiose, perché non siamo ancora in grado di vedere effettivamente come, che cosa succederà a Expo e quale delle opere messe in cantiere per Expo poi troveranno la possibilità di una continuazione. Si sta discutendo proprio in queste settimane dell'utilizzo dei capannoni, dei padiglioni che nella zona fiera verranno costruiti per Expo, e già si sta discutendo e si sta litigando all'interno dei poteri forti della città su come gestire questo patrimonio e come riutilizzarlo. Quindi questo terzo livello per il momento non lo prendiamo in considerazione. Quello che invece abbiamo i dati più certi riguardano i primi due livelli. Allora, l'impatto occupazionale nella costruzione di Expo è interessato essenzialmente il settore della cantieristica, quindi dell'edilizia in particolar modo, ma con essenzialmente un lavoro caratterizzato da un lavoro temporaneo, perché come tipico dell'attività edile, il lavoro viene richiesto solo per la durata dei cantieri. Questo significa quindi tutta quell'occupazione in più che è stata creata per la costruzione delle infrastrutture di Expo, poi una volta che queste sono terminate questa forza lavoro ovviamente verrà a perdersi. Per di più tutta questa attività lavorativa, proprio per la natura del tipo di lavoro effettuato, è caratterizzata da un elevatissimo tasso di precarietà, con dentro anche tutta una serie di implicazioni all'interno delle catene di subfornitura e di esternalizzazione di tutta la serie di opere, da una buona quota di lavoro nero e lavoro incerto, lavoro mal pagato, lavoro sottopagato. Per quanto riguarda invece l'occupazione che si dovrebbe creare per i 6 mesi di Expo, qui abbiamo, è forse l'unico punto in cui abbiamo dei dati abbastanza precisi, perché ricordo che nel luglio del 2013, quindi più di un anno fa, è stato siglato un accordo tra le confederazioni sindacali CGIL e CISL UIL, Expo SPA, che è una società privata, e il Comune di Milano. Tra parentesi, il fatto che l'Expo venga gestito da una società privata è il primo caso che avviene nella storia dell'Esposizione Universale dalla fine del 1800 a oggi, perché una delle regole di Expo era proprio che la gestione di Expo doveva essere una gestione pubblica e non privata, ma è stata fatta un'eccezione per questa Expo 2015, e già questo la dice lunga su quelli che sono gli interessi che sono messi in moto. Comunque, al di là di questo, in questo accordo che ricordavo prima, si stima che l'occupazione necessaria per far funzionare la macchina di Expo nel momento stesso in cui è partito riguarda circa 22.000 unità di lavoro. E di queste 22.000 unità di lavoro, in quell'accordo che anticipa il Job Act ed è subito dopo la legge Fornero, che è stata fatta nel giugno del 2013, questo è un accordo fine giugno del 2013 per l'appunto, di questi 22.000 posti di lavoro ipotizzati abbiamo una struttura di questo tipo: circa 2.000 dovrebbero essere attività di lavoro di apprendistato, di collaborazioni o contratti a tempo determinato. Contratti a tempo determinato che poi verranno ulteriormente liberalizzati dal Job Act, e quindi non ci sarà neanche più bisogno di inserire la causale perché giustifichi il ricorso al lavoro a tempo determinato, una causale che comunque nel caso di Expo sarebbe stata abbastanza facile, perché Expo è già di per sé un evento a tempo determinato. Si parla di circa delle assunzioni più stabili nell'ordine di 700 unità. Il resto di queste 2000 più 2000, queste 700 unità sono 2007, e tutto il resto, sono circa 18.000 posti di lavoro, dovrebbero essere coperti da lavoro più o meno volontario, ovvero sia lavoro gratuito. E di conseguenza qui si scopre un po' il re è nudo, perché se l'Expo avrebbe dovuto creare un'opportunità di lavoro, soprattutto a livello giovanile, in realtà si traduce nel domandare essenzialmente lavoro gratuito che già adesso viene richiesto attraverso una serie di reclutamenti che avvengono un po' in tutte le parti d'Italia, non solo nella regione Lombardia. Già sono stati aperti, parlando appunto con alcuni compagni napoletani in questi 2 giorni che si è verificata proprio l'11 e 12 ottobre a Milano, si parlava già di una serie di iniziative che avvengono in Campania, avvengono in Puglia, avvengono in Sicilia, cioè nel sud, e dove viene lanciata la possibilità di trasferirsi per i 6 mesi a Milano e accettare condizioni di lavoro appunto gratuito in vista di un incremento del proprio curriculum individuale come biglietto da visita per poter accedere a nuove opportunità di lavoro successive. C'è già un meccanismo di creazione di immaginari, creazione di illusioni, di aspettative, che su una platea di 18.000 persone ovviamente può dar adito a dei risultati futuri molto molto incerti e assolutamente minimali. Quindi di fatto Expo diventa il paradigma e viene testato dal punto di vista occupazionale quello che potrebbe essere la nuova idea di mercato del lavoro, che è stata poi giuridicamente implementata nel Job Act atto primo, cioè nella legge 78, la legge cosiddetta Poletti, che è stata approvata nel maggio scorso, dove oltre a liberalizzare il contratto a termine e quindi renderlo del tutto acausale, c'è una forte riforma del contratto di apprendistato, dove praticamente l'obbligo di assunzione al termine dell'apprendistato viene fortemente ridotto, perché soltanto meno del 30% dei contratti di apprendistato possono essere trasformati in contratti stabili lavori, che significa che il 70% degli apprendisti poi se ne torneranno a casa. Non c'è più l'obbligo di certificazione della formazione in forma scritta, ma basta una semplice dichiarazione del datore di lavoro, e quindi di fatto anche il ruolo che un contratto di apprendistato dovrebbe avere, come dice la parola stessa, quello di consentire l'apprendimento, in realtà viene meno, e quindi questo fa sì che il contratto di apprendistato possa essere utilizzato per tutti quei lavori di minor qualità, perché infatti contratto di apprendistato, come era già implicito nella riforma Fornero, è finalizzato a essere il canale privilegiato di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani a bassa qualifica, cioè quelli che non hanno un titolo di laurea triennale o di laurea magistrale, per intenderci, al di sotto dei 29 anni. C'è un trattamento salariale del 30% inferiore a chi svolge la stessa attività a pari mansione e i contributi sociali sono per il 95% a carico dello Stato, e quindi con forte risparmio dal punto di vista del costo del lavoro per le imprese che utilizzano questo contratto. Qui si vede, si inizia a capire qual è un po' il disegno che si intende perseguire. Abbiamo una nuova proposta di segmentazione del mercato del lavoro che vede appunto i giovani sotto i 29 anni a bassa qualifica entrano col contratto di apprendistato e poi si vedrà che cosa succederà. Nel frattempo comunque è forza lavoro, manodopera a basso costo, è molto conveniente. Il contratto a tempo determinato, rendendolo del tutto acausale e quindi del tutto liberalizzato senza giustificazione, tende a diventare il contratto di lavoro standard, diciamo, di riferimento per le assunzioni di manodopera. E questo riguarda tutti coloro, soprattutto che hanno una fascia d'età dai 30 ai 60 anni. E poi abbiamo il quello che è stato presentato nel Job Act Stato Primo, che è il cosiddetto piano garanzia giovani, finanziato con 1,5 miliardi di euro dalla Comunità Europea all'interno degli obiettivi Horizon 2020, dove si mettono in piedi delle strutture di collegamento fra domande e offerte di lavoro gestite a livello regionale, dove si offrono ai giovani, che sono giovani invece che non dovrebbero entrare nel contratto d'apprendistato, con i giovani con una preparazione delle competenze medio-alte, quindi con un titolo di fatto di studio universitario, che dovrebbero entrare attraverso forme di borse, lavoro, stage, lavoro volontario, servizio civile. E questa è in questo ambito che rientra la categoria dei 18.000 volontari, in un certo senso, che Expo in maniera massiccia per la prima volta in Italia introduce, quindi si vuole testare la validità di questo ingresso gratuito nel mondo del lavoro. E quindi si inizia a intravedere che il mercato del lavoro futuro troverà una riduzione delle tipologie contrattuali, andranno sempre più a sparire, diciamo, il contratto di formazione del lavoro via dicendo, rimarranno essenzialmente forme di lavoro subordinato, divise appunto tra lavoro gratuito, lavoro a tempo determinato, che è la tipologia precaria per eccellenza, già oggi maggioritaria nella contrattazione atipica, e le forme di apprendistato come meccanismo di inserimento nel mercato del lavoro. E poi rimarrà come lavoro autonomo, lavoro non direttamente subordinato, la partita IVA, che più delle volte, come sappiamo, nasconde condizioni di lavoro etero diretto e di reale subordinazione invece che di reale autonomia. E questa è un po' la configurazione. Ecco, Expo da questo punto di vista rappresenta, diciamo, il test per questa configurazione del mercato del lavoro. Da questo punto di vista è facile prevedere che le ricadute dal punto di vista della crescita economica sono molto ridotte, perché se si dà occupazione senza pagare salari, è chiaro che poi le possibilità di consumo, di spese, di incrementi di domanda, che possono rendere più convenienti anche attività di investimento delle imprese, aumenti di produzione, quindi crescita del PIL, ovviamente sono molto, molto ridotte, se non del tutto inesistenti. E si introduce il paradigma della disponibilità al lavoro, a prescindere dalla forma di remunerazione, come strumento illusorio di poter poi accedere a forme di lavoro meno precarie. Ma queste forme di lavoro meno precarie, nel momento stesso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato diventa il contratto di riferimento per tutti, difficilmente potranno essere realizzate. Quindi abbiamo un circuito vizioso dove appunto Expo diventa, senza esagerare purtroppo, il momento in cui, oltre alla devastazione e saccheggio dei territori, si sta attuando una devastazione di una generazione, e questo forse ancora più l'aspetto forse meno preso in considerazione ma forse più pericoloso che sta dietro all'evento di Expo. Sì, infatti ci interessava appunto guardare a questo evento anche un po' come un'apripista più generale alle politiche del lavoro che ci sono in questo momento, perché se è vero che appunto, come diceva, la creazione di contratti peraltro precari che Expo porterà è a tutti gli effetti una goccia nel mare in quella che è la disoccupazione giovanile attuale, che sta toccando appunto picchi che non si vedevano da decenni, dall'altro però è appunto paradigmatico un po' di tutto lo spirito che incarna poi il Jobs Act, che di fatto vede il governo Renzi farsi carico di rimuovere un po' tutti quegli ultimi ostacoli, quelle rigidità che si frappongono a una precarizzazione totale del mondo del lavoro. Nei giorni scorsi il Premier diceva: con il Jobs Act finalmente i lavoratori saranno tutti uguali, non ci saranno più differenze interne. Probabilmente questo è vero, ma è chiaro che sarà un livellamento a ribasso nel momento in cui andrà semplicemente a legiferare su una situazione che per molti versi già esiste, che è appunto quella di apprendistati, lavoro gratuito e precarietà non solo lavorativa ma esistenziale. Quindi appunto ci interessava guardare anche a questo evento proprio un po' come appunto un'apripista di politiche più generali che vedremo messe in atto nei prossimi mesi. Assolutamente d'accordo su questo, e teniamo presente che tutto questo viene accompagnato da una capacità anche di comunicazione mediatica che non è affatto stupida, ma abbastanza sofisticata, decisamente migliore, meno grossolana di quella che aveva caratterizzato, diciamo, il periodo d'oro berlusconiano, per intenderci, cioè il fatto che si ribadisce tutte le volte che si interviene in maniera pesante, in maniera di riduzione dei diritti, dove l'articolo 18, che già di per sé era stato annichilito dalla riforma Fornero, quando aveva consentito il licenziamento economico individuale, dire oggi che invece l'articolo 18 viene mantenuto per licenziamenti discriminatori non significa nulla, perché nessuno licenzia dichiarando che lo fa per finalità discriminatorie, questo è ovvio, e considerando comunque che sempre onere del lavoratore provare che quel licenziamento ha motivazioni diverse da quelle economico-disciplinari, no? E quindi al dire questo, la discussione che c'è stata sull'articolo 18 in quest'ultimo periodo qui è stata già sorpassata dagli stessi eventi e ha sollevato un'attenzione per nascondere tutta una serie di altri provvedimenti che vanno esattamente nella direzione che veniva ricordata prima. E viene compensato questo effetto con la promessa che ci sarà un intervento sul lato degli ammortizzatori sociali. Nel frattempo, però, ciò che è reale è che questi provvedimenti, nel momento stesso in cui verrà messa la fiducia settimana prossima alla Camera, dopo che è stata già messa al Senato, diventeranno immediatamente operativi e quindi entrano in funzione proprio in vista dell'Expo. E mentre il discorso sugli ammortizzatori sociali viene delegato alla legge di stabilità, una legge di stabilità che incontra notevole difficoltà per trovare le risorse perché ci sia un intervento serio dal punto di vista del welfare, la promessa di Renzi di 1,5 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali è abbastanza ridicola dal punto di vista della cifra, perché i calcoli, considerando il livello di disoccupazione esistente in Italia, non tanto quello ufficiale statistico, ma quello effettivo reale, che è di gran lunga superiore a quello dichiarato dalle statistiche ufficiali, si parla quasi di 6 milioni di persone in Italia che hanno necessità di trovare un'occupazione perché hanno bisogno di reddito e non i 3 milioni e 300 mila che le statistiche ufficiali ci dicono. Ecco, se volessimo intervenire sul piano delle ammortizzatori sociali in maniera uniforme e universale, garantendo un minimo di reddito per queste persone, la cifra che è stata stimata, che è abbastanza stimata da più fonti, è intorno ai 15-16 miliardi di euro. Fare la promessa di 1,5 miliardi implicherà che questo 1,5 miliardi verrà dato in maniera molto selettiva, con ulteriori processi di dumping sociale, di sviluppare quella guerra fra poveri, che è forse l'elemento principale che consente, che fa sì che di fronte a questi pesanti attacchi a favore della precarietà esistenziale, la capacità di reazione e di risposta sia abbastanza, tutto sommato, abbastanza limitata. E questo ovviamente è un tema che credo che anche noi che cerchiamo di capire queste dinamiche, opere di manifestazioni eccetera, si cerca di chiudere la stalla quando ormai i buoi sono già scappati, da questo punto di vista potremmo dire così. Ecco, questa situazione crea un fortissimo senso di impotenza o al limite un malessere che spesso si potrebbe tradurre in capacità conflittuale se fosse, diciamo, meglio canalizzato, o si riuscisse a parlare all'interno della questa situazione di malessere fra i soggetti che ne sono portatori, e in più delle volte questo è molto difficile da attuarsi perché da una parte c'è la ricerca di una soluzione il più possibile individuale, e quindi all'interno appunto di un discorso di mors tua vita mea, sì, in un certo senso, e dall'altra c'è un problema oggettivo, perché questo prima è un problema, diciamo, di soggettività, di come uno la soggettività reagisce di fronte a una situazione di forte incertezza e di quasi di presenza costante di aspettative negative, in un senso di impotenza e di frustrazione che il soggetto che subisce queste condizioni e queste difficoltà di vita, queste condizioni di precarietà, come le gestisce. Ma dall'altra parte c'è anche un problema molto più oggettivo, che è il fatto che oggi, molto banalmente, non c'è tempo per la lotta, nel senso che non c'è tempo per la lotta perché si è troppo impegnati a sopravvivere, e la storia ci insegna che i processi di trasformazione e di cambiamento avvengono quando la pancia, non dico che sia completamente piena, ma diciamo certi bisogni primari sono in grado di essere soddisfatti, e quando invece ci sono delle situazioni di forte pressione vitale, diciamo così, magari si possono sviluppare dei processi di rivolta, delle fiammate, ma non si riesce a sedimentare un percorso di lotta, di trasformazione, di organizzazione, di nuove forme di rappresentanza di queste soggettività sparse, e questo è il problema che mi auguro che la denuncia, la soggettivazione, la presa di coscienza che magari certi eventi come l'Expo portano, e che quindi inducono a iniziare dei primi embrioni di ragionamento alternativo, possono invece favorire che questi vari rivoli possano in qualche modo incontrarsi e formare un fiume un po' più potente. Certo, beh, sicuramente speriamo che anche questa chiacchierata che abbiamo avuto possa essere un tassello utile. Noi, insomma, la ringraziamo molto per la disponibilità, per insomma aver condiviso con noi questi ragionamenti. Sicuramente ci sarà da portarli avanti ancora nei prossimi mesi. Per ora, appunto, la ringraziamo, le auguriamo una buona giornata. Devo dire che queste prime due giorni dell'11 e 12 ottobre, la manifestazione di Città Milano, pur a livello regionale, eccetera, comunque già, secondo me, avendoci partecipato, ha dato già dei segnali positivi in questa direzione. Consideriamo che poi l'Expo inizia il 1° maggio, che è il 1° maggio anche il giorno della festa del lavoro, quindi ci sono tutte, anche qui si può creare dei contro immaginari da questo punto di vista abbastanza potenti. Assolutamente. Non è affatto perso, non vorrei dare l'idea di essere eccessivamente pessimista. No, infatti teniamoci una dose di ottimismo, assolutamente. Va bene, noi appunto la ringraziamo e speriamo a risentirci presto. Nel frattempo, buona giornata. Altrettanto a voi, un saluto a tutti. Un saluto, grazie. E questo appunto era il contributo di Andrea Fumagalli per quanto riguarda Expo. Sicuramente nei prossimi mesi ci sarà da ritornare sulla questione, però intanto ci interessava appunto partire proprio da qualche dato tecnico, ma anche molto materiale, per provare a svelare un po', insomma, questa grande vetrina di Expo. Adesso facciamo un po' uno stacco musicale dopo questa lunga diretta, poi proseguiamo con la nostra puntata. We'll be right back. sorriso quella fuggita mattina. Ma che progetto curioso fa quel tram chiamato sospiro e guai. Dopo un risveglio gioioso all'inferno forte non torna mai. Ci sono istanti che vivere una merda, che vada poco poi è pur sempre una scoperta. È pur sempre una scoperta. È pur sempre una scoperta. Esplosi in un secondo e fu davvero come della grazia un mondo. Oh, che secreti l'emozione, sentirsi vulcani in eruzione, incandescente come la lava che dalla bocca terrifica spava. Ma che discesa gloriosa fa quel magma senza fermarsi mai. Come una belva furiosa il suo inferno porta portando guai. Ci sono istanti che vivere una merda, che vada poco poi è pur sempre una scoperta. Sono le volte che proprio non ce la fai più. Se vorresti volar per davvero nel blu, dipinto di blu, per poterti nessuna cosa al mondo sa come si disperda. In quegli istanti cui vivere una merda, che vada a fuoco poi è purtroppo cosa certa. Sono le volte che proprio non ce la fai più. Che vorresti volar per davvero nel blu, dipinto di we'll be right back. mezzogiorno e 07, continuiamo con questa puntata di Parole Ribelli e passiamo al secondo approfondimento. Ci spostiamo questa volta nella nostra città, a Torino, in università, dove ieri c'è stata un'assemblea che ha visto, insomma, gli studenti e le studentesse dell'Università di Torino organizzarsi per la 3 giorni di mobilitazione di questo fine settimana, insomma giovedì, venerdì e sabato. Abbiamo in collegamento con noi una studentessa di Unito, appunto Elodie, che intanto ti salutiamo e ti chiediamo se ci senti. Sì, mi sento. Okay, ciao Elodie. Allora, voglia di, insomma, spiegare un po' ai nostri microfoni i contenuti e gli appuntamenti che sono usciti ieri da questa assemblea. Sì, beh, i contenuti di questa assemblea, che è stata di fatto abbastanza eterogenea nella sua conformazione, sono sempre, diciamo, di grande contesto verso questo vertice di ministri europei, un vertice dell'ipocrisia di fatto, specie certo sulla disoccupazione giovanile, il diritto alla casa, alla salute, ma l'istruzione sicuramente è colpita da questi signori e i loro continui incontri. Da questa assemblea, che è stata fatta ieri in atrio di Palazzo Nuovo, sono usciti vari appuntamenti, come la giornata del 16, concentrarsi su quindi un corteo studentesco, diciamo, che ritrova alle 11 a Palazzo Nuovo, e con l'intenzione così di far sentire la voce anche degli studenti e quindi di inserirci in maniera abbastanza attiva e partecipante a questi 3 giorni di lotta, di mobilitazione, di sciopero generale metropolitano. Gli appuntamenti non finiscono qua, perché il 17 alle ore 9 in Piazza Arbarello ci sarà di nuovo il corteo studentesco con lo spezzone universitario e ci auguriamo di essere numerosi. Qui a Palazzo Nuovo continuiamo noi tutti, studenti e studentesse, a volantinare, a spicherare, a cercare di coinvolgere il più possibile la popolazione studentesca. Detto questo ci auguriamo che la partecipazione sia attiva, anche chi sta ascoltando e magari non ha la possibilità di venire qua di persona nelle giornate di preparazione a questi 3 giorni, ci auguriamo comunque una partecipazione attiva invece il 16 e il 17. E ricordiamo ovviamente il 18 invece il corteo cittadino, sempre con il ritrovo a Palazzo Nuovo alle ore 14:30. Questi sono gli appuntamenti, grosso modo, che ci siamo dati ieri in questa assemblea studentesca in atrio. Ok, ma senti, per chi volesse partecipare, insomma, dare una mano con volantinaggi o con, insomma, queste cose qua per fare gli striscioni, c'hai un gancio da dare agli ascoltatori? Sì. Beh, ora nell'immediato stiamo già facendo questa azione mentre io vi parlo, i miei compagni stanno già attivandosi, perciò in realtà tutta la giornata a Palazzo Nuovo ci troverete a volantinare e a spicchierare. Alle 16 di questo pomeriggio ci ritrovo al terzo piano per magari striscioni, cartelloni, contestualizzare un po' quello che sarà il corteo studentesco e, diciamo, farci un po' riconoscere come partecipazione attiva e appunto di una bella immagine, insomma. Ore 16 oggi pomeriggio per queste cose, diciamo, degli striscioni, creare insieme magari qualche idea più carina per rendere più partecipativo questo corteo, diciamo. Va bene, grazie Elodie, noi sicuramente ci risentiremo e ci terremo aggiornati su come, insomma, viene portato un po' i contenuti di questa mobilitazione, anche proprio nello specifico in università e sulle iniziative che come studenti e studentesse metterete in campo. Per cui io ti ringrazio e ti saluto. Ti saluto anch'io, grazie mille. Ciao. Ciao. Vabbè, rilancio sicuramente gli appuntamenti che ci ha dato adesso Elodie. Ricordo a tutti per questo fine settimana, a partire da giovedì 16 ottobre, sciopero sociale metropolitano e nazionale della logistica, il 17 ottobre per invece questo venerdì alle 9 in Piazza Arbarello ci sarà un corteo studentesco e non solo, un corteo studentesco e cittadino sfruttati a scuola e al lavoro. Contestiamo i ministri E per concludere, l'ultima giornata, questo sabato, corteo cittadino contro il vertice dell'ipocrisia, Palazzo Nuovo, via Sant'Ottavio, alle ore 14.30, questo è il punto di ritrovo. .250, sempre all'ascolto di Parole Ribelli, ci ricolleghiamo brevemente a quanto ci diceva poco fa Elodie rispetto alla mobilitazione che anche in università si sta organizzando in vista della giornata del 16 ottobre di mobilitazione nazionale. Poi, per quanto riguarda il contesto torinese, quella contro il vertice dei ministri europei, e proprio a questo proposito vorremmo così dare brevemente una notizia che è comparsa ieri sul sulle pagine della stampa di Torino, che ci fa un po' il quadro della nostra città, nel quale appunto si preparano ad arrivare i ministri del lavoro di tutta Europa, che insomma il tasso di occupazione giovanile non fosse appunto sempre più a ribasso in questi anni, già si sapeva, insomma ne abbiamo parlato più volte, ma addirittura Torino, che sembra appunto destinata a continuare a macinare record in negativo, detiene appunto un tasso di disoccupazione giovanile addirittura più alto della media, detiene infatti il record del nord, dove appunto quasi la metà dei ragazzi con meno di 24 anni non studia e non lavora, quindi appunto addirittura più alto della media nazionale in generale del nord Italia. E niente, quindi questo ci sembrava così interessante da dire, per far presente anche appunto quale sarà il contesto nel quale arriveranno i ministri, e magari speriamo sia uno stimolo insomma per andare a farlo presente tutti assieme nelle giornate di venerdì e sabato, e ricordargli che la situazione attuale conseguenza proprio delle politiche che questi signori hanno messo in atto in questi mesi e che sicuramente non hanno intenzione di cambiare con i provvedimenti che sono in approvazione in questi mesi, sicuramente per quanto riguarda le nostre latitudini, come dicevamo anche prima, il Jobs Act non andrà che insomma sancire di fatto questa situazione attuale, rendendoci tutti precari e non certo provando insomma a cambiare un po' la situazione. Quindi l'invito ancora una volta il 17 e il 18 a scendere in piazza, andare a contestare i ministri dell'Europa. Adesso vi lasciamo ancora un altro pezzo musicale, poi ci avviamo insomma verso la conclusione della puntata, andando a parlare invece della mobilitazione del Messico, di cui abbiamo già parlato nelle scorse puntate, ma sulla quale appunto ci sono alcuni aggiornamenti. Buon ascolto. Signor Pirro, le scrivo, testimone sotterro, quello che porta il documento fotografato dall'inferno, per uno stato di polizia, sotto finta democrazia, tutta la gente come la mia, con traiettoria e acrobazia, dove una vita vale di meno, se una divisa preme che il letto, nessuna colpa resta un mistero, quando ti mandano al cimitero, quando ti mandano al camposanto, come hanno fatto i colleghi con altro, per sua morte senza un reato, ma gli assassini non l'hanno pagato, come hanno fatto pure con gas, senza motivo, sangue versato, mille bucce per un colpo sbagliato, per coprire ci pensa il capo. Oggi è 11 novembre, le curve contro lo Stato, e non chiedermi perché non mi fido dell'uomo armato, come lo avete fatto in passato, un cerchio sopra l'asfalto, dopo la morte come quel sasso, spacca la testa a crare, niente colpevoli né assassini, tra quegli elementi ordinati e precisi, tutti protetti, tutti impuniti, è la giustizia dei burattini. Nella polizia di Stato, lo Stato di polizia, polizia di Stato, lo Stato di polizia, polizia di Stato, lo Stato di polizia, è la polizia di Stato, lo Stato di polizia, è la polizia di Stato, lo Stato di polizia, polizia di Stato, lo Stato di polizia, polizia di Stato, lo Stato di polizia, è la polizia di Stato, lo Stato di polizia. Scrivo una lettera ad un analfabeta, gente scrivi polizia con due Z, picchia che il cranio si crepa, zio fuoco amico, come errori in guerra, prima il tipo ha il cervello in terra, perché pensava che eri una merda, se mi proteggono chi, mi protegge da loro, chi, io non mi fido mai, no, mi proteggo da solo, e non importa le cose che sai, se poi gli sbirri sono come i VIP, io non pagano mai, dal piombo degli anni 70, la sirena lo incanta, sa che è merce appena la scarta, lo sa perché tira la bianca, zio si alza e già pulisce la berta al mattino, ruba le buste in discoteca in cui entra col tesserino, a Milano nei quartieri i bambini non parlano agli sconosciuti, ma nemmeno agli sbirri e ai carabinieri, no, guardie e ladri, chissà chi fra chi sono gli infami, chi ha lanciato il sasso oppure chi ha messo indietro le mani. È la polizia di Stato, lo Stato di polizia, polizia di Stato, lo Stato di polizia, polizia di Stato, lo Stato di polizia, è la polizia di Stato, lo Stato di polizia, è la polizia di Stato, lo Stato di polizia, polizia di Stato, lo Stato di polizia, polizia di Stato, lo Stato di polizia, è la polizia di Stato, lo Stato di polizia.

questo è il marchio della city e me lo vedi addosso. Tutto questo sono io senza alcun rimorso. Oh, tutto questo sono io. Oh. .105-250, passiamo all'ultimo approfondimento di questa puntata di Parole Ribelli di questa mattina. Allora, come anticipavamo prima, insomma, passiamo in Messico, ci sono infatti degli aggiornamenti. Nel pomeriggio di ieri centinaia di studenti e di maestri hanno fatto irruzione nel palazzo del governo, edificio chiamato Tierra Caliente, per proteste, naturalmente, poiché le autorità non hanno fornito alcune informazioni ancora su dove si trovino i 43 normalisti di Ayotzinapa scomparsi oramai dal 26 settembre. Per cui, insomma, verso le ore 17 i contestatori hanno fatto irruzione sul piazzale dell'immobile governativo, distruggendo le vetrate negli edifici Costa Chica, Costa Grande, Centro e Nord. Poliziotti controllano il palazzo del governo, è stato capovolto un furgone di un'impresa di fronte al palazzo. E, insomma, e questo è quanto per riguardo il pomeriggio di ieri. Notizie invece più fresche di questa mattina è che le autorità messicane hanno rinvenuto altre 4 fosse comuni contenenti resti umani carbonizzati in un sito nel sud-ovest del paese, dove funzionari temono che gli studenti scomparsi siano stati massacrati da membri dei narcos in combutta con la polizia di Iguala. Il sindaco di centrosinistra a Libro Paga, dei narcos. 22 agenti di polizia locale sono stati arrestati insieme a 12 altre persone che sono state arrestate in relazione al caso, portando oramai il numero totale a detenute 34. Intanto l'8 di ottobre in decine di migliaia hanno marciato attraverso la capitale messicana e un altro centinaio di altre città per gli studenti di Iguala, rispondendo all'appello dei loro familiari. Abbiamo da farvi ascoltare una diretta che abbiamo reperito da Radio Onda d'Urto. Adesso la mando. Sì, in realtà appunto questa notizia delle fosse era già di qualche giorno fa, insomma già la settimana scorsa avevamo dato notizia di questa prima fossa su cui ancora si stava indagando. Appunto nei giorni successivi ne sono state trovate altre, il timore appunto che si tratti proprio dei corpi di questi studenti scomparsi, anche se appunto le autorità continuano, insomma, a opporre un muro di silenzio alla richiesta di giustizia e di verità che gli studenti, i familiari, gli insegnanti stanno portando avanti e che appunto hanno portato anche all'esplosione di rabbia di ieri. Adesso proviamo a farvi ascoltare appunto quest'audio che è di qualche giorno fa, ma che appunto fa un po' il punto della situazione, soprattutto spiega bene un po' questa relazione torbida tra polizia, narcos e governo locale che ha poi portato a questa situazione. Abbiamo un po' di problemi nel far caricare l'audio, speriamo non si interrompa, insomma ci proviamo, se no rimandiamo poi al link. Gigantesche mobilitazioni studentesche in Messico dopo, in risposta al massacro degli studenti di Iguala e anche all'appello dei familiari di questi ultimi desaparecidos in Messico. Noi abbiamo prima letto una parte di quanto scritto da Andrea Spotti da Città del Messico, adesso siamo direttamente in collegamento telefonico con Andrea, proprio da Città del Messico. Ciao Andrea. Ciao a tutti, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Andrea, hai iscritto di queste grandi mobilitazioni, dunque io non vado oltre, abbiamo parlato di questa vicenda degli studenti scomparsi di Iguala dopo appunto durante delle manifestazioni studentesche, ritrovati poi i corpi in alcune fosse comuni poco distanti nella notte tra mercoledì e giovedì, per quanto ci riguarda, se non sbaglio, ci sono state delle grosse mobilitazioni studentesche in in risposta a tutto questo, se ci vuoi raccontare. Sì, allora, le manifestazioni sì, sono state l'8 di ottobre, come dicevi giustamente, in seguito all'appello lanciato dal comitato dei familiari delle vittime della strage di Iguala, e la risposta è stata assolutamente contundente, diciamo, una risposta che fa sperare, diciamo, bene per il futuro, vista la condizione che stiamo vivendo adesso nel paese dal 2006 a questa parte, cioè da quando c'è appunto la cosiddetta guerra al narco, in cui i massacri e le fosse clandestine sono tristemente, diciamo così, all'ordine del giorno. La manifestazione io la definirei come un gigantesco moltitudinario Iabasta, no? Rifacendomi un po' agli Iabasta, insomma, originario, quello del 94 delle ZLN. È stata appunto una giornata di mobilitazione nazionale in cui ci sono state iniziative in 27 dei 32 stati della Repubblica e in un centinaio di città, nelle principali città del paese. La risposta è stata forte, perché nessuno si aspettava sinceramente una risposta di questo tipo, perché si pensava che dopo anni di violenza la gente si fosse assuefatta, diciamo così, a questo tipo di situazioni. Invece il massacro di Stato degli studenti normalisti ha aperto una nuova fase, in qualche misura, nel senso che la risposta è stata davvero forte. Le manifestazioni più significative dal mio punto di vista, anche se evidentemente non abbiamo potuto seguirle tutte, sono state prima di tutto quella a Cilpansingo, dove circa 50.000 persone, tra studenti e sindacalisti legati ai sindacati dei lavoratori dell'educazione, hanno sfilato per il centro della città, riscuotendo grandissima solidarietà da parte dei passanti e della gente che incrociava il corteo. E nello stesso tempo un altro corteo, sempre formato da normalisti, bloccava l'autostrada del Sole, che è quella che collega Città del Messico con Acapulco, che è una delle più importanti località turistiche messicane. Un'altra manifestazione importante è stata sicuramente quella a San Cristóbal de las Casas, dove è sceso in piazza l'esercito zapatista di Liberazione Nazionale con almeno 20.000 basi di appoggio, e hanno fatto una marcia. Anche qui c'è stata la marcia è stata silenziosa. Una volta arrivati al centro hanno circondato simbolicamente il municipio di San Cristóbal, e poi sono immediatamente, senza fermarsi né fare comizi, sono ritornati sui loro mezzi di trasporto per ritornare poi nelle comunità. Un'altra poi manifestazione di una certa forza, iniziative di una certa forza si sono state a Oaxaca, dove ci sono stati addirittura 4 cortei, blocchi stradali, blocchi di centri commerciali. Ed infine il portavoce della sezione 14 del Sindacato Nazionale dei Lavoratori dell'Educazione ha annunciato un presidio permanente in piazza, nella piazza centrale, e il blocco dei lavori totale e a tempo indeterminato, cioè fino a quando non saranno ritrovati i 43 normalisti desaparecidos. Infine, per citarne solo alcune, la manifestazione comunque più importante dal punto di vista numerico è stata sicuramente quella che ha sfilato per le strade della capitale, anche se i giornali non hanno messo cifre, si può sicuramente parlare di una presenza di almeno 100.000 persone, il che non si vedeva da perlomeno, una mobilitazione di questo tipo non si vedeva perlomeno dal 2011 e da quando c'è stato poi il movimento Io Soy 132 contro i brogli elettorali del 2012. Quindi sicuramente una risposta forte al clima di terrore che si sta vivendo nel paese e all'impunità, diciamo così, che lo rende possibile, e dall'altra parte sì, lo definirei anche come un abbraccio solidale nei confronti dei normalisti, che un abbraccio solidale appunto nei confronti dei normalisti, e quindi una rottura, diciamo così, della situazione un po' apatica che si stava vivendo finora nel paese, no? Nel senso che le stragi di questo tipo, diciamo, non così efferate forse, ma ce ne sono state altre, però una risposta del genere non era ancora arrivata, e quindi possiamo sperare, insomma, che sia un'inversione di tendenza e che quindi magari si possa iniziare un periodo di mobilitazione non solo contro

parlare non mi basta. Il rap è la mia via d'uscita, è questo che ci salva. Dimmi se ti garba, pompa sul volume di ogni suono che ti spacca. Questo è il suono del mio ghetto blasta. E allora, prima di concludere questa puntata di Parole Ribelli di oggi, martedì 14 ottobre, leggiamo un po' quelli che sono gli appuntamenti di questa settimana. Cominciamo subito da questa sera, ore 18 in Piazza Castello, ci sarà un presidio in solidarietà con la resistenza popolare del Rojava nel Kurdistan siriano. Quindi ore 18 Piazza Castello, e questo è il primo appuntamento. E sempre per quanto riguarda la giornata di quest'oggi, consueto appuntamento con le cene dell'asilo occupato, dalle ore 21, appuntamento in via Alessandria 12, cena benefit detenuti. Passiamo a domani alle ore 8 del mattino, per i più mattinieri, colazione condivisa Notav al cancello della centrale di Chiomonte. E per quanto riguarda invece la mobilitazione verso il 16 ottobre, abbiamo già ricordato i vari appuntamenti in corso di puntata, ce ne siamo dimenticati uno per quanto riguarda lo sciopero della logistica qua a Torino. L'appuntamento sarà anticipato già alla sera prima, quindi alla sera di mercoledì 15 ottobre, dalle ore 23, appuntamento al CAT, al Centro Agroalimentare di Torino di Grugliasco. Quindi insomma l'invito a mobilitarsi fin dalla sera prima per andare a dare supporto ai lavoratori della logistica che saranno davanti ai cancelli, e poi insomma lo sciopero proseguirà anche nelle ore successive. Questo è quanto, sono le 12.43, quindi noi vi salutiamo, vi diamo come di consueto appuntamento martedì prossimo sempre dalle 10.45 alle 12.45, non vediamo ancora al di là del vetro Maria e Aurelio per il GR, ma immaginiamo arriveranno a breve, non vediamo neanche Simone, per cui non sappiamo se Cattivi Pensieri andrà in onda o meno. In ogni caso vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Blackout. Mandiamo ancora un saluto a Eddie, che oggi non era qua in studio con noi ma che tornerà martedì prossimo, e vi auguriamo una buona giornata. Un saluto a tutti e a tutte da Francesca e da Costanza, ciao. Ehi, hey, non mi tengo più niente. West Nullius, Crazyology Stare. Non passa giorno che non spacco. C'è un demone incastrato dentro che mi spinge a farlo. Avrei potuto esorcizzarlo, ma ci ho stretto un patto. Non mi ha promesso niente a parte un giro d'alcol. La mia sola redenzione su sto palco. E c'ho davanti mille mani, sì, ma quanti cervelli. In rete ho 10.000 amici, sì, ma quanti fratelli. E c'ho davanti mille facce, sì, ma quante persone. E poi ti chiedi perché un rapper conscious va in depressione. E grazie a casa, hai cuore dentro quel salvadanaio. La mia voce nelle orecchie, la mia mano sul tuo cranio. Per ogni cento che ne tocco, forse ne salvo un paio. Fosse diverso, ogni concerto nascerebbe un raio. Serve pensare, sì, ma serve prima azione. Esperti di costituzione, attenti all'impaginazione. A stato di diritto, a stato di deprivazione. A fine mese ci arrivi, sì, con l'immaginazione. Per questo stato so niente, per la mia banca insolvente. Ma in questo mare di merda sono il tuo salvagente. Scusa il linguaggio crudo e tono insolente. Ma ho dato tutto e mo non mi tengo più niente. Non mi tengo niente, socio, non mi tengo niente. Non mi tengo niente, io non credo più. Serve, non capisco come fa la gente a trattenersi sempre. Ho tenuto troppo, adesso vomito la merda. Non mi tengo niente, socio, non mi tengo niente. Vomito la merda, adesso vomito la merda. Non mi tengo niente, socio, non mi tengo niente. Vomito la merda, adesso vomito la merda. Siamo arrivati fino a qui lasciando tutto indietro. Con un passato scritto addosso ed un futuro incerto. Passi da gigante trascinando gli altri. Senza nessun aiuto, anzi trascinando gli altri. Siamo arrivati fino a primo, non si torna indietro. E per abbandonarsi